e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, una settimana che per noi parte di nuovo da Expo, dove Radio 24 è ospite dello spazio Regione Emilia-Romagna. Ci siamo sia oggi che domani, Nicoletta, quindi ben presenti qua, belle piazzate, c'è questo bel flusso anche di persone che ci vengono a trovare. Quella di oggi è una puntata molto speciale, perché oggi è il 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, una giornata pensata per dare attenzione e spazio a chi vive questa grave malattia neurologica in prima persona nella sua famiglia, ma è importante anche per riflettere sul fatto che sono sempre di più le persone che ne sono coinvolte, anche alla luce dell'aumento dell'età media. Oggi quindi si diffondono dati, si tengono convegni, incontri in tutta Italia, si portano avanti campagne di sensibilizzazione e informazione, e naturalmente anche noi non potevamo che esserci. E quando il dottor Alzheimer descrisse per la prima volta la malattia che poi prese il suo nome, certamente non poteva immaginare che sarebbe diventata l'epidemia silente del terzo millennio, ma sarebbe sicuramente contento di sapere che la ricerca è impegnata con tutte le forze a trovare una soluzione in grado di sconfiggerla attraverso le cure o la prevenzione. Questo va detto e vogliamo sottolinearlo, perché non dobbiamo e non possiamo perdere la speranza, non possiamo soprattutto rassegnarci all'idea che questa malattia tolga vita a quegli anni di vita in più che abbiamo faticosamente guadagnato. Infatti, allora, la malattia è tipica dell'invecchiamento, i numeri sono in aumento continuo in tutto il mondo, i sistemi sanitari fanno fatica ad affrontare una situazione che peraltro sapete bene, soprattutto per chi in famiglia vive questo dramma che si protrae per anni e che richiede un'assistenza che nelle fasi più critiche può anche dover essere estesa le 24 ore su sì, 24. Le giornate diventano di 36 ore, guarda. Infatti, quindi ne parliamo in questa puntata che vuole essere un'occasione per che cosa? Per parlare di diagnosi precoce, di campanelli d'allarme, di sintomi, di nuovi approcci di cura, di ricerca. Una puntata che possa dare voce a chi la malattia la conosce da vicino, malati, familiari, operatori, medici e ricercatori, però naturalmente noi non vogliamo tralasciare nessuno, ma vogliamo anche rispondere ai dubbi, alle domande più frequenti su questa malattia che, lo ricordiamo, è una delle patologie più temute insieme al cancro. Ne parleremo naturalmente da molti punti di vista, come sempre alla Cuore Denari, quindi affronteremo anche i costi emotivi e i costi economici e sociali di questo problema. Quando andiamo a casa? Ci siamo già, mamma. Andiamo a casa. Questa è la nostra casa, rispondo io con voce da implorante a impaziente. Dietro a te c'è la cucina. Ti ricordi quando la nonna ha acceso la candela perché stava per nascere Paolo e nel trambusto si è bruciato anche un pezzo di armadietto e per anni è rimasto il segno nero? Nella sua memoria è tutto bruciato. La candela, la cucina, la nostra infanzia, l'orientamento spazio-temporale, l'appartamento ai cinque palazzoni dove abbiamo vissuto 30 anni. Tutto. Portami a casa, per favore. Quando andiamo a casa sono le parole che spesso ripetono i malati di Alzheimer, anche quando si trovano già nella loro casa. È una domanda che racconta lo smarrimento, il senso di devastazione provocato da questa malattia per la quale al momento non esiste cura. E Quando andiamo a casa è il titolo del libro di cui parleremo oggi, che farà da fil rouge di tutta la nostra puntata. È con noi l'autore, un collega del Corriere della Sera, Michele Farina. Ciao Michele. Pronto? Sì, Michele, sono qua, buongiorno. Ecco, Michele, nell'attesa buongiorno. Di aspettarti qua in studio, intanto grazie e benvenuto. Grazie a voi. Michele, tu hai perso la tua mamma per una forma di Alzheimer precoce e, come scrivi nel libro, sono stati anni di lento smantellamento, però a distanza di tempo, di due lustri, hai sentito proprio il bisogno di ritornare in quei luoghi, sei andato un po' a ricercare la tua mamma nel volto, nelle storie di uomini, donne, padri, madri, fratelli, a cui tu ti sei avvicinato in punta di piedi e di cui hai conosciuto il dolore, lo smarrimento, la rabbia, il senso di impotenza, ma anche, si legge bene nel tuo libro L'amore, la tenerezza e il coraggio, perché hai incontrato malati, familiari, ma anche medici e ricercatori, tante persone diverse, un po' come succede in un viaggio, no? Alcune diventano amiche, altre restano dei bei ricordi, tutte comunque lasciano un segno. Immagino, Michele, che l'organizzazione sia stata abbastanza complessa dal punto di vista emotivo, non solo organizzativo, ma ce l'hai fatta. E alla fine di questo viaggio come ti senti? Mi sento meglio di come l'ho iniziato. Per me è molto difficile parlarne, soprattutto dopo aver ascoltato quel brano del libro, e sono davvero emozionato, quindi perdonatemi se sono un po'... Fa effetto rossa. Sentire i libri letti, il libro scritto da te letto da un'altra persona, è vero, ha un impatto emotivo abbastanza forte. Ma soprattutto poi perché credo che il libro e le parole scritte sono riuscite a convogliare delle cose che altrimenti non sarei mai riuscito a dire a voce. E per me davvero è incredibile essere qua oggi a parlarne, averlo scritto, aver incontrato tutta la gente che ho incontrato, persone come me, i medicini sono reduce dell'Alzheimer, come milioni di persone in Italia. In questo momento ci sono almeno 3 milioni di familiari che vivono questa esperienza con i loro cari, che sono l'ultimo rapporto, le ultime stime danno 1.600.000 persone in Italia affette da demenza. Bisogna ricordare che la demenza è una famiglia di patologie, l'Alzheimer è la più diffusa e conta più o meno 600 persone malate, sono altre forme di demenza, tutte accomunate, se vogliamo, dallo stesso marchio, no? Certo. Allora lasciami lanciare, Michele, il nostro numero verde 800 24 00 24. Vogliamo parlare di Alzheimer, vogliamo però anche raccogliere le telefonate, le dubbi, le domande delle persone che approfittano magari di questa nostra trasmissione per ricevere dai nostri esperti anche dei consigli per conoscere i fattori di rischio e per anche conoscere come si può proteggere la salute del cervello negli anni. Alle 11:30 ne parleremo proprio approfonditamente, se volete consigli, indicazioni, quanto conta la dieta, quanto l'attività fisica, quanto contano le relazioni sociali e quanto costa l'aspetto economico, naturalmente, perché per chi deve gestire queste persone, sia che lo faccia in casa sia che voglia fruire magari di strutture adeguate, deve però mettere il cuore in pace del fatto che la spesa che va sostenuta è enorme. Ne parleremo più tardi, c'è una sorta di compartecipazione fra pubblico e privato che però è molto difficile, appunto, che si concretizzi sempre, e quindi a Michele più tardi chiederemo anche proprio quanto è stato importante e pesante affrontare l'aspetto economico nella sua esperienza personale, perché l'aspetto economico rende ancora più gravoso questo percorso. Ne parleremo nel corso della puntata, ma magari adesso vediamo se con Michele riusciamo ancora, magari ce lo facciamo raccontare non appena arriva qui in studio. Michele, il problema l'hai vissuto tu in che modo con la tua mamma ai tempi del tuo viaggio? Che cosa è successo? È successo che mia mamma comincia a non vederci bene, vai dall'oculista, gli occhi sono perfetti, ma il medico dice forse è il caso di fare approfondimenti, dal neurologo, poco a poco. È una trafila che dura ancora oggi, perché arrivare alla diagnosi spesso richiede un anno, due, tre. Hai la diagnosi e poi te ne torni a casa, perlomeno così era 20 anni fa. Torni a casa e devi affrontare una realtà che non è solamente dramma, credo questo sia importante, perché oggi è bello celebrare, secondo me, l'Alzheimer. Io l'avrei chiamato, se avessi la possibilità, chiamerei qualche cosa Alzheimer Fest, perché deve Fest. Essere anche una festa. Sì, è una cosa un è po' vero. Ardita, mi permetto di farlo, no, perché l'ho vissuto in un approccio. Nel tuo libro infatti si coglie, no, questa doppia lettura. Intanto vogliamo salutare il prossimo ospite che ci accompagnerà in questa puntata, il professor Marco Trabucchi, che è presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Professor Trabucchi, intanto Michele diceva, allora, la diagnosi, no? Arriva dopo un annetto e così deve passare tutto questo tempo per arrivare a dare un nome alla causa di quei disturbi che in modo più o meno evidente si compaiono? No, oggi siamo un pochino più veloci di quanto non fossimo 20 anni fa, cioè il tempo in cui Farina ha vissuto la sua esperienza personale, però resta sempre un'impresa difficile, nel senso che occorre che la famiglia se ne accorga, e talvolta la famiglia nega a se stessa anche la realtà, perché vediamo, aspettiamo, perché il timore della parola Alzheimer è un timore sempre molto forte, molto pesante per le famiglie. Quindi prima c'è un rallentamento da parte della famiglia, poi c'è il medico di famiglia, il quale talvolta tende anche lui, giustamente o ingiustamente non do un giudizio, ma perché la responsabilità clinica è la sua, a dire aspettiamo, vediamo se è veramente una malattia o se non è un processo di invecchiamento. E così si perdono dei mesi, si perde del tempo. Dopo però, quando uno oggi si avvicina alle cosiddette unità di valutazione Alzheimer o come vengono chiamate nelle diverse regioni, c'è servizi dedicati, la diagnosi poi arriva in un tempo abbastanza rapido, nel senso non più di un mese. Allora, adesso per noi è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24, ma intanto Debra mi segnalava un messaggio. Sì, ci sono anche già dei messaggi. Ci colpisce questo di Fiorenza da Firenze: non sottovalutate le difficoltà dei familiari di accettare la realtà di questa devastante malattia. So che Michele Farina avrà qualche cosa da commentare anche proprio a questo proposito. Possiamo bene immaginarlo, naturalmente, quando non si conosce più il tuo genitore, no? Certo. E proprio forse anche nel brano che abbiamo letto prima, tratto dal libro di Michele, è assolutamente evidente questo aspetto. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, a tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Cuore e denari. L'arrestarsi di un cervello affetto da demenza mi fa pensare allo spegnimento dell'alto forno dell'acciaieria di Piombino. Ci hanno provato di questi tempi, che è il più senile d'Italia. Ci vuole tempo. Non è come staccare la spina. Togliere energia ai vari reparti, la memoria, il linguaggio, il movimento, la deglutizione, eccetera, diventa un lavoro low-tech che gratta via grammi su grammi a un cervello da 1,5 kg. La malattia svuota con il cucchiaino dell'uovo alla cocca, senza che lo svuotato, forse, se ne accorga appieno, e lasciandolo senza tuorlo, ma con un guscio privo di crepe, e tutto sommato, ho sentito dire, con una bella pelle. Un lavoro di intarsio così lungo e così intenso non può non lasciare, almeno in chi assiste, una montagna di ricordi. Da Quando andiamo a casa, mia madre e il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer, un ricordo alla volta di Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera, che è in linea con noi. Michele, lentamente ma inesorabilmente la malattia ha portato via la tua mamma, e così ha fatto, sta facendo con i personaggi che tu hai incontrato, che conosceremo anche nel corso della trasmissione, perché li hai ben descritti nel tuo libro. Chi legge il libro diventa quasi amico, no? Entra davvero nelle loro storie. Persone che la malattia rende diverse, l'anticipavamo prima delle informazioni sul traffico, lontane, altre rispetto a prima. Questa è una caratteristica dell'Alzheimer e delle demenze? Sì, forse è la caratteristica più subdola, quella che è più difficile da accettare. Io, guardando indietro e poi pensando alle persone, alle storie che ho conosciuto in questi anni, direi che proprio le fasi iniziali, che possono durare qualche anno, sono quelle più dure per chi sta intorno. Magari non dure logisticamente, ma non si è ancora in una condizione in cui magari la deambulazione è davvero difficile, però all'accettazione, accettare che una persona non sia più la stessa, è davvero non riesce. È vero che a volte le famiglie sono, no, i primi scudi tentando di proteggerle dalle persone intorno, dagli amici, no, dalla vergogna, noi abbiamo finito un po' per certi aspetti, no, a chiuderci, anche è vero, forse in un momento in cui fuori non c'era moltissimo, perché se fuori non hai una comunità in qualche modo accogliente, amica, si dice adesso, no? Le famiglie tendono a chiudersi a riccio. Vorrei anche commentare, no, questo aspetto insieme al professor Trabucchi. Il medico nell'affrontare, nel curare la persona malata, deve comunque farsi carico e appoggiare anche i familiari, perché è tutta la famiglia che vive la malattia. Professor Trabucchi. Certo, certo. Mi lasci dire prima un brevissimo commento sul libro di Michele Farina. Io credo che sia uno degli strumenti educativi più importanti che oggi abbiamo a disposizione per educare anche i professionisti sulle demenze. Lo dico senza piaggeria per l'autore che è lì presente. No, ma perché è vero. No, non è qua presente, perché arriverà. Ecco, gli tiriamo le orecchie. No, tanto per dire, perché se no gli facciamo tutti i complimenti. Ma ci ha un po' paccato, no, con un abbraccio naturalmente. Io lo sto utilizzando alcuni passaggi quando faccio lezione anche ai medici e agli infermieri, proprio perché avvicina la realtà. Realtà nella quale, come sta dicendo lei giustamente, c'è anche il problema dei familiari, i quali sono per vari motivi al centro del nostro interesse. Primo, perché soffrono. E quindi la loro sofferenza deve essere un obiettivo dell'azione del medico, perché quando una persona soffre è sempre bisognoso di supporto farmacologico, ma soprattutto di spiegazioni, di accompagnamento. Di fronte alle mille situazioni che presenta l'ammalato, spesso la risposta di chi si cura di lui è una risposta di dolore, perché teme di non farcela, perché ha sensi di colpa, perché non capisce quello che il paziente, il malato gli vuole trasmettere, perché talvolta quando compaiono disturbi comportamentali veramente si sente offeso, dice: ma come, ti ho voluto bene per 50 anni, dice il coniuge, oppure la figlia dice qualcosa di diverso, e adesso mi accusi di tradirti, mi accusi di essere un ladro, una ladra. Ecco. Di fronte a queste situazioni l'opera del medico deve essere un'opera molto incisiva, di presenza, intanto di spiegare, poi di dire: guardi che l'evoluzione è questa e quindi andremo incontro ad altre difficoltà, però sappia che non è una condizione di cattiveria da parte del suo, ce la fa lavorare moltissimo il suo marito, sua moglie che ha questi sintomi, non è per cattiveria, non è perché lo vuole, ma è la malattia. Eppure per la famiglia, professor Trabucchi, la interrompo brutalmente solamente perché volevo invitare Ivana della provincia di Modena a supportare proprio queste sue considerazioni, perché credo che su questo terreno voleva andare la nostra ascoltatrice, no? Quanta fatica si fa, quanto dolore si prova nel non riconoscere più il caro che a sua volta non ti riconosce. Ivana, benvenuta. Sì, sono. Buongiorno. Buongiorno, siete le mie amiche del mattino. Allora, grazie, volevo Ivana. Dire che la cosa più che mi ha addolorato è proprio il fatto di non riuscire a comunicare, che lei non mi conoscesse, che quando le chiedevo chi sono lei mi sorrideva dicendo non so. O io non potevo chiederle delle cose che prima non le avevo chiesto e che così lei non riusciva più a rispondermi, ecco, anche se nella sua malattia era così comparsa una dolcezza che prima non aveva, perché aveva un carattere molto chiuso. Ho ricevuto più baci in quei 7 anni che è stata malata che gli anni che erano, certo, passati prima, insomma, proprio perché così l'aveva cambiata. Ivana deve leggere assolutamente, ma non è per sponsorizzare il libro, perché veramente nel libro di Michele anche lei ritroverà, come Michele ha fatto, no, nel ritrovare un po' il volto, certo, della sua mamma, e in tante sappiamo storie. Quanto faccia bene questa condivisione poi, no, sì, di emozioni. Insieme al professor Trabucchi tra poco vogliamo parlare di ricerca e io vorrei tornare, professor Trabucchi, su una ricerca, una notizia che ha creato molto allarme. Mi riferisco alla notizia che riferiva alla contagiosità dell'Alzheimer, no? L'abbiamo letto su tutti i giornali. Torniamo su questo, perché abbiamo aperto la puntata dicendo dobbiamo avere fiducia nella ricerca, perché non possiamo permettere che questa malattia ci rubi quella qualità, no, degli anni che faticosamente abbiamo guadagnato. Torneremo su questo. Vogliamo prima dare la parola un attimo a Tiziana. A Tiziana da Biella. Tiziana, benvenuta, se ce la fa. Grazie. In 50 secondi poi commentiamo Commentiamo io dopo il giornale radio. Ho vissuto 7 anni con la mamma con l'Alzheimer ed è mancata lo scorso anno, quindi acquisterò il libro del signor Farina perché mi sa che condividiamo delle cose che abbiamo vissuto e ho vissuto anch'io. E purtroppo è stata devastante l'esperienza, perché secondo me è la peggior malattia che uno possa avere, e sono terrorizzata dall'idea che possa venire anche Tiziana, a me. Tiziana, avevo una domanda prima del GR? Volevo solo sapere come si fa, se c'è qualcosa per prevenire questa terribile malattia, qualche segnale che può far capire che sta arrivando e se si può prevenire. Grazie. Grazie Tiziana, ne parleremo naturalmente nel corso della puntata. Adesso Deborina? Adesso c'è il giornale radio, abbiamo 10 secondi di tempo, giusto quelli che ci servono per salutare i nostri colleghi dalla redazione e dare la linea all'informazione, ma noi ritorniamo subito dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta... Cuore e denari. Il cervello ha gli anni del proprietario. Ad esempio, la milza e il cuore sono più giovani, sottoposti a un ricambio continuo come altri tessuti. È affascinante e consolante. Non abbiamo una sola età, siamo un puzzle di generazioni differenti. Più che uno spaccato o un frullato della nostra storia, il corpo assomiglia a quei muri ristrutturati che preservano elementi architettonici di epoche precedenti. Nel mio convivono adulti e neonati, neuroni di un baby boomer e cellule epiteliali di un nativo digitale. Un globulo rosso vive, in media, 120 giorni e copre 1600 chilometri. Nel fegato, se non ho capito male, il turnover cellulare richiede 300-500 giorni, sulle pareti dello stomaco solo 5. Certi muscoli nel petto di un trentenne hanno la metà dei suoi anni. Il cervello, invece, invecchia quasi tutto con noi, alla nostra età anagrafica. Forse per questo si squaglia con il tempo? Stiamo leggendo insieme il libro di Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera e autore di Quando andiamo a casa, Mia madre, il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer, Un ricordo alla volta. Michele è arrivato qua in studio. Sì. E ci sono anche dei ricordi belli. E su questo vogliamo naturalmente tornare. In linea con noi abbiamo il professor Trabucchi, parleremo anche non solamente di costi emotivi, di costi sociali, anche di ma veri, anche di costi, esatto, costi veri. Professor Trabucchi, abbiamo la domanda della nostra ascoltatrice che prima del giornale radio diceva: ho avuto un caso in famiglia, ma ci sono? Mamma, c'è modo? Una mamma, 7 anni. C'è modo di individuare precocemente i segnali? Mi riferisco anche a quello che diceva prima la signora Tiziana, quando diceva di avere paura che la malattia possa capitare anche a lei. Ecco, e questo mi permette di dire e di riaffermare con molta determinazione che non vi è nessuna possibilità di trasmissibilità della malattia di Alzheimer. Qualcheduno un paio di settimane fa aveva diffuso una notizia che non ha nessun senso e ha solo lo scopo di diffondere timore in mezzo alle famiglie, in mezzo alle persone che generose ci danno al servizio degli altri. Guai se ci fosse timore che la malattia fosse trasmissibile, perché si distruggerebbe o si metterebbe in crisi un mondo di generosità, di disponibilità, quello che ci permette oggi di assistere i nostri anziani ammalati. Abbiamo Giusy che ci chiama da Milano, che ripropone la domanda della nostra ascoltatrice prima del GR. Giusy, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, innanzitutto complimenti perché conducete questa trasmissione con tanta grazia e competenza e vi ringrazio per questo, perché è un piacere ascoltarvi. Grazie Giusy, ci fa molto piacere. Siamo le amiche del mattino, come ci ha già descritto la sua collega precedentemente. Grazie Giusy. Ecco, poi a proposito di Alzheimer, quello che chiedevo io penso di riconoscere dei sintomi in una persona a me cara di Alzheimer, o comunque qualcosa non va, questa persona è diventata in certi momenti più aggressiva, dimentica tante cose eccetera. Infatti mi interesserebbe approfondire il discorso dei segnali premonitori, ma al di là di questo, se questa persona comunque ancora una persona in salute e con la mente che funziona, insomma attiva, come si fa a affrontare il discorso? Perché io mi sono rivolta al medico di base e mi ha detto, oh, ma a me non sembra, come vuole che lo mandi a fare le prove da un neurologo. È chiaro che questa persona, se gli dico vai a fare le prove per l'Alzheimer, non mi sembra che possa accettarlo, certo, in modo così. Ecco, quindi come si può passare, cioè arrivare proprio a una diagnosi precoce senza turbare la sensibilità della, certo, della persona. Professor Trabucchi, questa è una domanda per lei. Sì, certo, la signora Giusy ha posto una domanda di fronte alla quale noi ci troviamo spessissimo a dover gestire situazioni delicatissime e dolorose. La signora Giusy ci dice, secondo me sta avvenendo qualche cosa, secondo me sta cambiando, non è più lui. Ecco, va dal suo medico e, come si diceva all'inizio della trasmissione, non sempre il medico è pronto, è in grado, è capace o ha voglia o ritiene opportuno, adesso non voglio criticare, portare questa persona a ulteriori passaggi diagnostici. Io ritengo, sì, che però invece, di fronte a quello che dice la signora Giusy, è necessario che lo porti ai centri dove si curano le demenze, garantendogli un accompagnamento che dovrebbe fare il medico di famiglia, dicendo guardi, molto probabilmente la sua non è una malattia grave, molto probabilmente la possiamo gestire, la possiamo accompagnare, le possiamo dare dei farmaci opportuni, e quindi si tratta di non negare la realtà, perché sarebbe un imbroglio, ma contemporaneamente garantire che è possibile fare qualche cosa, e questo qualcosa viene dalla medicina ufficiale, cioè i farmaci in particolare, ma viene soprattutto dalla garanzia che io medico continuo ad accompagnarti, non sarai tu da solo, tu e la tua figlia o tua moglie di fronte alla realtà della malattia. È importantissimo questa strada che diciamo a metà, ma che è la strada più equilibrata tra la negazione, che è una mancanza di rispetto verso il paziente, e dall'altra parte il dire chiaramente una diagnosi senza poi accompagnare, senza poi mediare, senza poi vederne le conseguenze, certo, psicologiche sul paziente. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che potete continuare a comporre per condividere con noi le vostre esperienze su questo argomento molto articolato, molto complesso, tante sfaccettature, un tema molto delicato. Dobbiamo adesso introdurre un po' il tema costi. Intanto direi, Nicoletta, di proporre ai nostri ascoltatori questa scheda che abbiamo preparato sui numeri dell'Alzheimer nel mondo. 9,9 milioni di casi all'anno, ovvero un nuovo caso di demenza scoperto ogni 3,2 secondi. Sono questi i numeri impressionanti diffusi dal Rapporto Mondiale Alzheimer 2015. Un dato in continuo aumento, che è solo una delle facce di un fenomeno fatto di esperienze delicatissime dal punto di vista umano, di risposte che la ricerca e l'assistenza medica si impegnano a dare, e infine, non ultimo, di costi sociali ed economici. Una cifra che raggiungerà, secondo il rapporto, 1.000 miliardi di dollari nel 2018. Si tratta di costi medici, costi di assistenza formale e informale. L'Italia ha 1,2 milioni di malati di Alzheimer. I nuovi casi del 2015 sono stati 269.000 e i costi ammontano a 37,6 miliardi di euro. Numeri che chiedono un sostegno sempre più importante per le famiglie dei malati e lo sviluppo di politiche economico-sanitarie capaci di contrastare questa malattia. È per questo che sono molti i fronti su cui si lavora e si devono investire energie, a cominciare dall'accesso a diagnosi tempestive, dal supporto post-diagnostico e dal miglioramento dell'accesso all'assistenza in casi di medio e basso reddito. Sono numeri questi che colpiscono e ci fanno sicuramente riflettere, superfluo dire quanto nel caso dell'argomento di oggi cuore e denari si intrecciano, si muovono insieme, condizionano la vita delle famiglie. Certo, allora oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, intanto continuiamo a ricevere molti messaggi da parte vostra, ci state scrivendo anche sui social network, naturalmente che come sempre sono molto vivaci su temi caldi come questo. Terenzio, lo segnalo perché è un attore che conosco e ci racconta che da 5 anni lavora con persone che hanno l'Alzheimer e familiari con questo progetto che si chiama Lo Yoga della Risata. Lui dice: il linguaggio del corpo è la chiave. Vedo che Michele Farina annuisce. Sì, io assolutamente sono d'accordo. Le persone con l'Alzheimer continuano a essere persone e avere ironia, affetto. Mi viene in mente, voglio citarlo, Federico S. di Napoli, che diceva: sì, è vero, qualche cellula del cervello purtroppo mi ha lasciato. Ma cosa vuole che faccia? Che porti il lutto per ciascuno. Cioè, no, è questo, fantastico. È teatro grande, sì, fatto, sì, sulla, sì, propria pelle, no? Quindi ricordiamoci sempre questo, ve ne dico un'altra al volo: Pier Giuseppe e Maria. Ah, sì. Lui è ex dirigente dell'azienda, lei è maestra, sono in una piazza, si parla della vergogna, dello stigma, no? E allora lei era lo stigma, no? Il fatto che comunque ti devi vergognare, la gente intorno ti comunque, no, è sospettosa, perché, semplicemente perché non sa che cos'è, non sa che tu continui a essere una persona in grado di fare tantissime cose. Quindi Maria, no, scherzando, dice: Pier Giuseppe, hai qualcosa di cui vergognarti? Hai per caso portato i soldi in qualche paradiso fiscale offshore? E lui ci pensa un attimo e dice: io ho il cervello offshore. Bellissimo. Incredibile. Cioè, no, ci sono, e non deve fare la voluntary disclosure, mi verrebbe da dire, in questo caso, dietro dei capitani e nel libro di Michele ci sono tante di queste storie, tanti di questi personaggi che ti aiutano a leggere la malattia dal punto di vista del malato, che rimane una persona. Parliamo adesso dei costi che questa malattia come l'Alzheimer appunto ha aggiunto al vostro bilancio familiare. Se volete raccontatecelo, raccontateci quali difficoltà vi siete trovati a superare per le cure, per la gestione. Ci sono le prove, come sentite in diretta, che siamo in Expo, per l'attrezzatura della casa, la retta di una residenza sanitaria assistita, per le scelte legate al vostro lavoro. Quali spese sono state coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e quali invece hanno gravato unicamente su di voi? Vi anticipavo prima che in teoria c'è una sorta di compartecipazione pubblico-privato che non sempre funziona ad hoc. Ne sa molto Francesca Arnaboldi, che è vicepresidente di Conf Consumatori, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Arnaboldi, benvenuta. Grazie. Proprio anche per aver puntato i riflettori su questo dramma che è gravissimo. Conconsumatori si occupa di questo problema degli anziani ormai da anni e vediamo proprio aumentare, ma direi settimana per settimana, il problema dei malati d'Alzheimer e quindi delle loro famiglie. Tra l'altro scenari nuovi anche per le associazioni dei consumatori, che si stanno abituando veramente a gestire con la platea dei consumatori che si iscrivono a loro o meno problematiche del tutto diverse rispetto al passato. Prima era il mutuo, il conto corrente, adesso veramente lo scenario sta cambiando. Anche questo è uno spaccato, sì, interessante. Sì. Arnaboldi, allora, infatti, una famiglia paga la retta di una residenza sanitaria assistita per una persona malata di Alzheimer, no? E non deve. Nella prassi, ecco, deve. Perché questa retta è teoricamente divisa in due parti. Ma no, ci spiega? Allora, per quanto riguarda il malato d'Alzheimer... Ricominciamo dall'incomincio, come si dice. Prego. No, dicevo, un malato di Alzheimer, l'ha detto la Cassazione nel 2012, non deve proprio pagare. Perché intanto c'è il diritto alla salute protetto dalla Costituzione, ma La Cassazione è stata chiarissima, dice: se oltre alle prestazioni socioassistenziali sono erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto di competenza e di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. E questa è una cosa chiara. Ciò che ci fa, guardi, noi seguiamo la cosa, come dicevo, veramente da molti anni. In questo ultimo periodo siamo abbastanza fiduciosi, perché noi vediamo i drammi che, oltre a, diciamo, al dramma dell'affetto della persona che non senti più vicino a te, che è da un'altra parte, appunto, ci sono i costi, ci sono i drammi delle persone, soprattutto che sono aumentate nel momento della crisi, persone che non hanno più di che far vivere la propria famiglia, ma hanno sottoscritto un impegno di pagare una parte consistente, ecco, della retta. Ci fa un esempio, Arna Boldi, la retta di una residenza sanitaria assistita, quanto potrebbe ammontare? Probabilmente ci saranno delle situazioni differenziate sul territorio, molto, strutture, ma insomma il minimo sindacale, chiamiamolo così, quant'è? 2.500. Chiedono in genere, molto spesso c'è, ma però adesso la logica è che non devono pagare, cioè i malati di Alzheimer sono malati, punto. Non si può distinguere la retta alberghiera, che a me sembra anche offensivo parlare di parte alberghiera, di come se fossero si risiedessero in una struttura alberghiera che assicura loro pranzo e cena e un confortevole riposo e ogni tanto gli fanno la punturina. Ma ha ragione la Cassazione, dice quello che è la realtà, cioè c'è un percorso di cura che dura 24 ore. Non è, che peso ha avuto questa sentenza della Cassazione, Arna Boldi? Prego? Perché mi pare che se queste sono le indicazioni, in ogni caso vengono disattese, no? Tre anni. Però faccio presente una cosa, che la sentenza 7020 del 2015, ecco, di quest'anno, del Comune di Milano, non di quello di Roccacannuccia, ha ripreso pari pari la posizione dell'interpretazione, che poi della Suprema Corte vorrei vedere, e quindi al Comune di Milano, che chiedeva al fratello di una malata d'Alzheimer deceduta 112.000 euro, cioè aveva già emesso la cartella esattoriale, ha risposto che non sono dovuti. Quindi c'è qualcosa che comincia ad andare avanti, così come noi abbiamo scritto ai 20 presidenti delle regioni italiane chiedendo quali erano le norme che applicava la regione da lui presieduta, nel momento, sia per gli anziani oltre 65 anni non autosufficienti che per i malati d'Alzheimer. Certo. In particolare, ma qui stiamo comunque parlando di strutture prevalentemente pubbliche, voglio sapere, perché c'è anche la possibilità per una famiglia di andare su strutture totalmente private ed eventualmente rivendicare una quota. Michele, tu puoi darci qualche informazione su questo? Sì, io credo che il tema del diritto, della questione, sia importante. Sta di fatto che la realtà oggi è che la stragrande maggioranza delle famiglie si trova a pagare, no? A concorrere nel pagamento. Non dimentichiamoci poi i costi, che sono quelli di chi ancora o mai andrà in una RSA, in una casa, in una struttura, cioè chi ha una persona cara a casa, e quindi quello che, no, con un brutto termine, esatto, che con un brutto termine si definisce il mondo delle badanti, degli assistenti, che è un mondo straordinario, sì. Che spesso viene, come dire, sottovalutato. Quello comunque, visto che parliamo di soldi e di danè, ha un costo enorme, anche perché spesso sono necessarie almeno due persone giorno e notte, cioè. Poi in il molti peso casi, molto spesso ricade un po' sulle donne, sulle donne di casa. Assolutamente, credo che il 60-70% dei caregiver, cioè delle persone che si occupano in prima persona di una persona malata, sono donne, e c'è anche proprio dai 50 ai 65 anni, c'è un carico, un burden che è davvero fortissimo, e c'è chi dice che, penso a un sociologo che si chiama Giuseppe Micheli, dice i maschi si dovrebbero un po' svegliare, no? I figli soprattutto, io da figlio capisco che, e ho visto insomma nella vita, che le donne, le figlie, figlie sono quelle che più, più naturalmente, secondo me più naturalmente accettano, anche non è un problema di egoismo, no? È proprio il fatto che le donne, le figlie hanno una capacità maggiore, questo non significa che devono farlo loro naturalmente. In ogni caso, per tornare alla brutalità dei numeri, io i termini di questa sentenza della Cassazione voglio ricordarli ai nostri ascoltatori, c'è comunque sempre un margine, no, di intervento, per cui fate valere i vostri diritti, è la numero 4558 del 22 marzo del 2012 che appunto ha stabilito che i malati di Alzheimer e parenti non devono versare alcuna retta alle case di cura convenzionate, alle strutture appunto che dicevamo prima, le RSA, le residenze sanitarie assistite, per cui è un'informazione in più che diamo e magari per qualcuno può anche essere utile, oltre al nuovo ruolo che devono giocare oggi le associazioni dei consumatori. Abbiamo sentito Comp Consumatori molto attiva su questo campo. Dobbiamo salutare Francesca Arnaboldi, la vicepresidente di questa associazione, sul sito di questa associazione tutte le informazioni su tutto questo. Grazie molte Arnaboldi, a presto. Allora, 800 24 00 24, per intervenire in diretta in trasmissione, per confrontarvi con l'autore del libro che fa un po' da fil rouge della puntata di oggi. Abbiamo qua con noi Michele Farina, ma in linea il professor Marco Trabucchi. Tante le domande che stanno arrivando, anche al 349-238-6666, dedicheremo naturalmente, no? Apriremo i microfoni nella seconda parte della trasmissione, con cui ci collegheremo anche con un'esperta che ci darà delle indicazioni che sono emerse da quanto alla ricerca, dai risultati della ricerca, per continuare a proteggere la salute del nostro cervello che insomma sente un po' il passare degli anni, vero Michele? A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Uliveto, ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Aristotele paragona la memoria alla corda di uno strumento musicale che continua a vibrare dopo essere stata toccata. Memoria come vibrazione, risonanza. Cassiodoro la vedeva piuttosto come una specie di piccionaia divisa in tante celle o nicchie, ciascuna con un ricordo viaggiatore. Ugo di San Vittore, nel XII secolo, l'ha paragonata al saculus del cambiavalute, un contenitore di pelle diviso in vari scomparti per le diverse monete. L'immagine più famosa è quella di Platone e della sua tavoletta di cera su cui si scrive per poi cancellarla. A Cuore Denari stiamo leggendo Quando andiamo a casa, mia madre, il mio viaggio per comprendere l'Alzheimer. In studio con noi c'è Michele Farina, in linea con noi abbiamo il professor Marco Trabucchi. Per tutti l'Alzheimer, abbiamo sottolineato questo passaggio sulla memoria perché è quella malattia che cancella la memoria, no? In realtà, Michele, nel tuo libro racconti tante storie, tante facce dell'Alzheimer che si presenta in modo diverso, no? Tornando all'immagine dello svuotamento, diciamo che ci sono variazioni sul tema e tu lo racconti bene nelle storie di Emilio, Oscar, Rosa. Hanno tutta una diagnosi comune ma tante vite diverse. C'è il signore che si ricorda solo di due parole e quelle rimangono, e quindi è più colpito nel linguaggio. Emilio che corteggia la moglie, poi ci sono i casi di Ottorina e Giuseppe, insomma tante, però sono tutte con la stessa diagnosi, ma l'Alzheimer lavora nel loro cervello in modo diverso. Ci faremo spiegare anche dal professor Trabucchi quanto la perdita di memoria può essere un segnale da non trascurare e che tipo di memoria si perde, ma Michele, vorremmo sentire da te. Sì, hai ricordato la storia di Emilio e di sua moglie Elisa seduta sul divano, no? Lui che dice: ma noi non possiamo metterci insieme. E lei: Emilio, siamo sposati da 43 anni. Lui: davvero? Lei gli mostra le foto del matrimonio. Lui piange. Poi dopo un po' torna alla carica. perché non ci sposiamo? Ora, mi ha molto colpito quando Elisa mi ha raccontato questa storia, perché la raccontava un po' spazientita, però soprattutto amorevole. Sì. Io ho trovato un sacco di amore in queste coppie. L'Alzheimer è vero che divide, sgretola, però molto spesso rafforza le storie e gli amori, e questa è una cosa importante. Perché è importante la memoria? Una cosa che non avevo mai focalizzato, non solo riguarda il passato, ma riguarda il futuro. Cioè, tutto quello che noi facciamo, che diciamo, un gesto, una parola, camminare, è proiezione del passato, proiezione di quello che ricordiamo. Quindi è vero, la memoria è la più colpita, e è un bacino, no, di strumenti che poi noi utilizziamo per fare le cose del futuro. Per questo lo spaesamento dell'Alzheimer, no? Quanto spesso si sente dire: e adesso cosa devo fare? No? Non è tanto solamente la memoria come noi ci immaginiamo, cioè perdere, no, la memoria del nostro stick, la nostra memoria esterna che è interna, perdere le cose, la nostra vita, la nostra, che già è una cosa, certo. È anche proprio il fare le cose, no? La memoria è questo. Però è anche vero che, come dire, se ne va a poco, ci sono delle cose, io li ho chiamati i Lusaka moments, no? Perché mia madre a un certo punto una volta disse, chiesi a tavola: ma qual è la capitale dello Zambia? No? Non so perché lo chiesi, ma chi rispose fu mia madre, che non è mai stata in Africa, che era già in una fase compromessa dalla malattia. Allora, la memoria è anche la perdita di memoria, a volte ti dà delle sorprese incredibili, cioè ripeschi delle cose, per esempio del tuo passato più lontano che non sapevi, riprendi magari una tenerezza, ce l'ha ricordato la signora prima, detto, ho avuto più baci. Tanti più baci, sì. E invece con il professor Trabucchi stiamo appunto sulla memoria. Ho un problema al microfono? Un pochino, lo sistemiamo, comunque meglio. Guarda che questa, vero? Essere accuditi. Professor Trabucchi, le domande dei nostri ascoltatori ruotano intorno alla memoria, segnali, perdita di memoria, quali sono i segnali da non sottovalutare. Le leggo un messaggio di Michele che ci scrive su Facebook: sono un uomo di 34 anni, mia moglie teme che io abbia qualche tipo di problema neurologico per via di vistosi tremori alle mani, cali di memoria che ho molto spesso, fa bene ad avere dei dubbi, come mi devo comportare con i miei due bambini, quali controlli si dovrebbero fare, sono un po' preoccupato. La racconta tutta, no? Il problema della demenza, sappiamo che sono in aumento perché l'età media si è allungata, e la demenza è una malattia insieme al cancro che rappresenta una delle paure più condivise. Professor Trabucchi, abbiamo bisogno che lei ci dia una rassicurazione e anche delle indicazioni, se si può parlare di prevenzione tra virgolette. Sì, sì, lei mi ha chiesto 27 cose, cercherò di rispondere almeno a due. Primo, di tranquillizzare quel signore, quel nostro concittadino 34enne con questi timori. Ecco, vada da un bravo medico, ma non da uno specialista delle demenze, perché non è quello il caso, e si faccia rassicurare. Talvolta basta mezza parola, basta uno sguardo a parte di un medico perché passi tutto, molto probabilmente, non lo vedo, sì. non l'ho visto, non l'ho sentito, ma molto probabilmente è solo un momento di difficoltà nella vita, come capitano tutti, 34enne può essere in un momento delicato della propria esperienza professionale, per esempio, e quindi questi segnali che vengono interpretati come segnali drammatici non sono altro che un segno di un passeggero momento di difficoltà che può passare con un minimo di supporto. Il resto della domanda che lei mi poneva, quello sulla come fare a prevenire, ecco, a prevenire la perdita di memoria e a prevenire la malattia. Ecco, il problema vero è che oggi abbiamo una serie di indicazioni molto ampie, ma non abbiamo la risposta definitiva. Prevenire la memoria oggi si sa che bisogna fare una vita attiva, sono cose che ormai tutti sanno, anche i nostri tutti ascoltatori. Sappiamo. Fare una vita attiva dal punto di vista motorio. E questo è importantissimo. Le gambe sono importanti per il funzionamento della testa. Lo dico così, già evidente, quasi come un paradosso, ma è così. Fare movimento a tutte le età, e non è mai troppo tardi per iniziare. Ci sono delle dimostrazioni recenti nella letteratura scientifica che l'attività motoria che si inizia a 80 anni è efficace anche in età così avanzata. poi attività intellettuale, rimanere attaccati alla vita, non ritirarsi, non chiudersi alla televisione, questo è importante, non chiudersi in casa, avere ognuno ovviamente per il suo livello di cultura, di sensibilità, mica tutti devono mettersi a leggere la filosofia, ma essere legati a quello che gira intorno, non dire ah io sono troppo vecchio, il mondo non funziona, non mi interessa, ecco questo. Terzo è curare le malattie croniche, perché oggi sappiamo bene che l'ipertensione, l'arteriosclerosi, il diabete, in particolare il diabete, oggi si insiste molto sulla cura del diabete o la prevenzione del diabete per evitare la comparsa o l'aggravamento di una situazione patologica a livello cognitivo. E poi fare anche altre cose, per esempio la dieta. Prendere una, oggi sappiamo, vi sono mille dimostrazioni che la dieta mediterranea non è l'alzati a camminare, invece non fa miracoli, però riesce a modificare, seppure di poco, una storia naturale. E noi sappiamo, come lei mi diceva prima, che la memoria è il primo o il principale dei sintomi, quello che forse è più immediatamente comprensibile da parte della gente. Ecco, quindi la prevenzione come non deve essere un'angoscia, però, capisce? Non è che io devo prevenire la demenza, io devo vivere bene a 60, 70, 80 o 50 anni. Devo vivere bene, e vivere bene, le regole fondamentali sono quelle che ho detto, ma mi raccomando, senza l'angoscia di dire faccio questo professor per non prendere Trabucchi, la demenza. Questo... E infatti 800 24 00 24, anche tenere in alto il cuore, come si dice. Tra l'altro c'è una relazione, professor Trabucchi, molto stretta tra la salute del cuore e quella del cervello. Sì, sono sì, due certo, organi che vanno a braccetto nella buona e nella cattiva sorte. Abbiamo dei nostri ascoltatori che vogliono intervenire, sì. prima di salutare il professor Trabucchi, che so che alle 10 ci deve lasciare alle 45. Allora Carlo da Modena era in attesa da un po', lo salutiamo. Carlo, benvenuto. Grazie e complimenti per la trasmissione, complimentissimi, sono contento di poter intervenire in questa fase, visto che anch'io ho dovuto sopportare in famiglia questo tipo di malattia. E io faccio l'ingegnere, quindi mi complimento con i medici che lavorano tantissimo, io mi occupo di altre cose ovviamente, e volevo solamente indicare che ci sono strutture, stiamo facendo strutture per malati di Alzheimer, e dove ci sono percorsi particolari scusate, in cui sì. Nei quali ovviamente il malato si riconosce, e giardini, si progettano i giardini, si progettano queste vecchie residenze che sono dei contenitori purtroppo, e nei quali appunto non si pretende che il malato recuperi, ma se non altro fermi la sua malattia. E l'architettura ha fatto tanto negli ultimi tempi, però non ha fatto niente per i malati di Alzheimer, ha fatto certo. per i movedenti, per ci arriveremo Carlo, ci arriveremo, magari grazie anche un pochino di merito ce lo prendiamo con la nostra trasmissione, con l'impegno che magari gli organi di informazione possono assumersi per sensibilizzare sempre di più la collettività su tutto ciò, con l'impegno anche dei familiari di chi è stato colpito appunto da questo problema, che racconta ciò che è stato della propria pelle per, come ha detto Carlo, sopportare queste situazioni, perché forse un altro termine è difficile da utilizzare. Detto questo, pian piano hanno traghettato il programma verso il nuovo appuntamento con il traffico. Sì, anche allora salutare... noi vogliamo salutare e ringraziare per essere stato con noi il professor Marco Trabucchi. Grazie, presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Grazie professore. Grazie, grazie, è stata veramente una trasmissione significativa per merito vostro e anche di Michele Farina. E anche suo professore, grazie. No, grazie, grazie perché lei ha dato delle indicazioni, un taglio di tranquillità e di esatto. non... Allora tra poco, dopo le informazioni sul traffico, il professor Trabucchi l'ha anticipato, c'è uno stile alimentare che è al placet della ricerca, che protegge il nostro cervello. Ne parliamo con Michele Farina e con la professoressa Laura Fratiglioni, direttore del centro ricerca e invecchiamento del Karolinska Institute, tra poco, dopo le informazioni sul traffico a Cuore Denari. 800 24 00 24 per dubbi, domande e ricerche. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Allora, eccoci ritrovati insieme per l'ultima parte di Cuore e Denari. Stiamo parlando di Alzheimer. Oggi è la giornata mondiale di questa patologia, per cui grazie al libro scritto da un collega, Michele Farina, stiamo tentando di capire cosa si può fare per naturalmente intanto cercare di intercettare quei segnali che possono darci l'idea che un nostro familiare è colpito dalla malattia, ma adesso parleremo anche di che ruolo gioca l'alimentazione nella prevenzione eventualmente di questo problema. 800 24 00 24 il numero verde per tutti i vostri interventi anche su questo ultimo aspetto, e dobbiamo presentare il nostro prossimo ospite. Certamente, abbiamo il piacere di avere in linea con noi la professoressa Laura Fratiglioni, che è direttore del Centro Ricerca e Invecchiamento del Karolinska Institute. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito e grazie soprattutto di aver preso l'iniziativa per questa trasmissione. Professoressa, siamo a Expo e abbiamo sottolineato tante volte il ruolo dell'alimentazione come un fattore protettivo della nostra buona salute. Ci aiuta a ricordare se c'è una dieta che protegge in qualche modo il cervello aiutandola a invecchiare bene? Sì, sono completamente d'accordo con lei che la dieta è importante per l'invecchiamento, è importante per la salute sia mentale che anche la salute fisica. Non ci dimentichiamo quanto la dieta è importante per le malattie, per prevenire le malattie cardiovascolari, per esempio. Ma ultimamente abbiamo capito che la dieta è importante anche per diminuire il rischio, cioè la nostra probabilità di sviluppare l'Alzheimer. Detto questo, dobbiamo anche sempre ricordarci che la dieta è solo una parte di una strategia preventiva che è mirata a promuovere stili di vita che ci aiutano ad invecchiare meglio. Quindi non possiamo prendere questo come l'unica possibile soluzione. Lei mi chiedeva quale dieta, ma ci sono veramente, la ricerca ultimamente ha fatto grandi passi avanti, ma ancora non abbiamo capito molto bene quali singoli elementi della dieta possono essere efficaci. Ci sono tante ipotesi, ma l'evidenza scientifica non è chiara, mentre quello che è chiaro sembra che un tipo di dieta, che è poi molto simile a quella nostra dieta mediterranea, sembra veramente diminuire il rischio sia delle malattie cardiovascolari e delle malattie mentali come l'Alzheimer. Quindi una dieta simile a quella che noi abbiamo in Italia, quindi con abbondante uso di frutta, verdure, legumi e poi soprattutto una diminuzione dei grassi animali, usare più grassi vegetali, l'olio di oliva per esempio, è una dieta decisamente favorevole per il nostro invecchiamento. Una cosa importante, se posso aggiungere, certo, non voglio essere troppo lunga, ma di solito le persone mi chiedono ma come facciamo a modificare, soprattutto se non vivono, non sono abituati culturalmente a questo tipo di dieta, come facciamo a modificare la nostra dieta? Chiaramente io dico non è che possiamo essere bravi tutti i giorni, e noi abbiamo dimostrato che avere anche una dieta di tipo misto, cioè qualche giorno essere più aderenti a una dieta mediterranea, altre volte invece una dieta più di tipo nordico, anche questo tipo di dieta mista può essere importante per prevenire l'Alzheimer. Professoressa, ci sono tante persone che fanno uso di integratori. Ho letto diversi studi in cui si sottolineava di avere una certa attenzione nel consumo di ferro e di rame, soprattutto nei casi in cui non fossero assunti dietro consiglio medico. C'è qualche cosa su questo aspetto? Ecco, in generale quando parliamo di integratori, allora lasciamo il tipo di dieta come insieme di alimenti che consumiamo, ma parliamo dei singoli componenti. E come ho detto, il singolo componente non abbiamo ancora dell'evidenza scientifica rilevante, importante per poter dare raccomandazioni. Quello che è certo, chiaramente, se ci sono degli stati clinici di deficienza di certe vitamine, come la vitamina B12, deficienza di ferro, chiaramente allora non parliamo più di prevenzione, ma parliamo di terapia, che è un altro discorso. Professoressa, lei ha lavorato molto sul ruolo protettivo di quella che viene chiamata riserva cognitiva. Ci vuole dire esattamente, purtroppo abbiamo solo 2 minuti, ma torneremo su questo argomento, che cosa si intende, magari facendoci un esempio, ricorrendo a un'immagine e dandoci un brevissimo un'indicazione per, no, tenerla, mantenere questa sorta di protezione. Ma la riserva cognitiva è la nostra capacità, la capacità del cervello di poter non manifestare nessun sintomo, quindi funzionare bene, nonostante che si accumulano lesioni inevitabilmente durante la nostra vita nel cervello stesso. E la capacità è data, pensiamo a una centralina che illumina una città, illumina diversi quartieri della città. Se abbiamo solo una centralina, nel momento in cui ci sarà un problema in quella centralina, tutta la città sarà al buio, tutti i quartieri saranno al buio. Se abbiamo una centralina dislocata e interconnessa, si avrà sempre la capacità di dare l'elettricità a quel quartiere in caso di problema nella centralina del quartiere, perché saranno le altre centraline a sopperire. Non so se sono riuscita a dare un esempio. Ha reso assolutamente rapita da questa definizione. Grazie. In questo la dieta, le relazioni sociali, l'istruzione, gli interessi possono, e anche quella che la professoressa ricorda nel libro di Michele Farina, il tango. Grazie professoressa per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. Noi purtroppo stiamo terminando il nostro programma, grazie anche alle vostre testimonianze avremmo potuto continuare a lungo, ci fermiamo qua, ma ci assumiamo l'impegno di ritornarci di nuovo, magari tornerà anche Michele Farina a trovarci da uno dei suoi tanti viaggi, perché comunque lavora per il Corriere della Sera, un inviato, per cui molti impegni, tra l'altro ci piacerebbe più o meno, non è inviato mi dice, insomma, però so che ti prendi anche se sì, lo so che contrattualmente poi dice mi fanno la testa, no, era molto interessante, non ho tempo, volevo farti una domanda, come si concilia anche un lavoro come il nostro con un eventuale problema in famiglia di questo tipo, magari sarà il tema di un'altra trasmissione. Michele, grazie. No, grazie a voi. Grazie. Noi ritorniamo domani sempre da qui, quindi alle 10:30 per tutti gli ospiti, attenzione, buona giornata.